perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci qui, le 9:08 minuti in questo istante, qui dalla sede di Radio 24 a Milano. Eccoci, cara Veronica, i funamboli sono tornati. Buongiorno, bel ragazzo. Che poi non... vabbè, insomma. Dai, che poi così non siamo la giornata noi. Te la sei portata, ecco, a casa. Che poi non siamo solo noi funamboli, non è solo l'alpino Peter Bescapè in regia, che salutiamo insieme alla nostra redazione. Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi, non siamo solo noi funamboli, siete tutti voi, cari ascoltatori, che vi arrabattate nella giornata difficoltosa. Soprattutto voi che ora sarete in macchina, chi ha lasciato i bambini a scuola, chi comincia la giornata di lavoro, chi si deve scapicollare da un lato all'altro di una città in mezzo al traffico. Come la capisco questa situazione, come la capisco. Pensavo a te. Eccoci qua. Allora, signori, secondo me, cara Veronica, la notizia da cui dovremmo partire, giusto per raccontare qualcosa agli ascoltatori e invitarli a chiamarci all'800240024, è che abbiamo scherzato. Lo Ius Soli è una sola. Dai, questa è... L'ho detta così. Fuori tempo massimo. Ma voglio dire, dibattiti, ma te li ricordi? Dibattiti di mesi, gazzarre in Parlamento, polemiche, Ius Soli sì, Ius Soli no, Ius Soli temperato, Ius culture. Adesso si è scoperto che non ci sono i numeri. Guarda, l'ha detto plasticamente il capogruppo del Senato del PD, Zanda, che ha detto... Il nostro obiettivo è quello di approvare la legge, non di portarla in aula e non farla approvare. Allora, citando Shakespeare, molto rumore per nulla. Ne hanno dette e fatte di tutti i colori, e adesso, lo dice Zanda, ha detto anche la Finocchiaro, che adesso è stata incaricata a cercare di portare avanti questa legge per presentarla successivamente in Parlamento, non è bene portarla in Parlamento e farla se bocciare. Non si può approvare, no? Allora uno dice, ma fino ad adesso... Finora che cosa avete fatto? Perché fino a ieri sembrava possibile? Perché la settimana scorsa Zanda ha detto che la cosa era possibile, che c'erano i numeri e ora non ci sono perché più? Perché questa è la vittoria, come sempre, per me è un mistero della fede politica di Angelino Alfano. Abbiamo detto all'unisono senza esserci messi d'accordo. È la vittoria di Alfano, dei centristi. Poi c'è chi diceva che non aveva il quid, capito? Alfano ha una marcia in più. Di fatto, in realtà, tutti i democratici che avevano paura che questa cosa facesse perdere consenso elettorale si sono saldati per bene al gruppo Area Popolare, al gruppo di Alfano, e hanno deciso di non farla passare. In più, c'è anche da dire, amico mio, che uno degli aspetti fondamentali è che finché si pensava che ci dovessero essere le elezioni anticipate, alcune leggi erano particolarmente urgenti, per esempio pensiamo a quella dello Ius Soli, che il Partito Democratico ha usato anche per coprirsi a sinistra, pensiamo ai vitalizi che andava che sul filone 5 Stelle, e sono due leggi che sono smaterializzate in un attimo. Però chiediamo ai nostri ascoltatori 800 24 0024, il mio parere, e questo l'avevo detto anche quando c'erano le polemiche, è che non è tempo per approvare una legge, quello in cui, leggo oggi dal titolo di prima pagina di Repubblica, il 46% dei cittadini si sente in pericolo. Allora uno può dire, il 46% dei cittadini sono populisti, demagogici, sbagliano, hanno una diversa percezione, ovviamente questo è legato all'immigrazione, ma in questo momento storico portare avanti, proprio in questo momento storico, non due anni fa, questo tipo di legge, vuol dire mettere un po' un dito negli occhi degli italiani. Questo è il mio modo di vedere. Ovviamente io non sono d'accordo. Ma dai. Io non penso così, penso che la politica... Poi si può pensare che questa legge sia giusta o meno, e ognuno ha il suo punto di vista. Io ritengo che sia una legge giusta, però questo è il mio parere. Io però non credo che la politica possa sempre essere attenta all'umore collettivo all'umore e stare lì. Della gente, no, penso che non dovrebbe essere quello l'obiettivo della politica. Credo che nel momento in cui la politica ritiene che una legge sia giusta e ritiene davvero, cosa che è, che non abbia niente a che fare col fenomeno, con l'emergenza migratoria, con quello che Minniti sta gestendo, mondo con gli sbarchi dalla Libia, ma è un'altra cosa. Si parla di quelli che sono cresciuti qui, dei bimbi che sono già qui. Allora, quella è un'altra cosa. E se si ritiene che questa legge sia giusta, anche se non serve a solleticare la pancetta dell'elettorato, a quel punto si fa. Perché mi hai visto che c'ho la pancetta? Guardavo te, io prendo sempre spunto da ciò che vedo intorno. Perché di solito si dice la pancia, però ma guardate dentro la pancetta. Quando ti si sbottona quell'ultimo bottoncino della camicia, vabbè, sai quando la panzetta diventa un po' troppo. 349-238-6666, se volete scriverci, oppure 800-24-0024, dite il vostro parere sullo Ius Soli. Principe, anche se lei non ci crede, questo stato di cose non durerà. La nostra efficiente, moderna, agile amministrazione cambierà ogni cosa. Non dovrebbe poter durare, ma durerà sempre. Il sempre umano, certo, uno o due secoli. E dopo forse tutto sarà diverso, ma sarà peggiore. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 448. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato. Vabbè, cambiare tutto pardo, per non cambiare nulla. È storia. È un po' sì, il Gattopardo. E questo quindi ci fa tuffare subito in Sicilia per raccontare una storia che abbiamo. Che ha dell'incredibile, però letta con i numeri, sono quelle cose che uno dice: dai, su che questa è una bufala. Perché di solito quando una storia comincia con il 90% di, è quasi sempre una bufala, poi dice è un fake. No, questa volta non è un fake. Ma lascia stare che di bufale parleremo più avanti. Infatti, un'anticipazione. Pare proprio una cosa vera. Abbiamo letto sui titoli di giornali e vogliamo partire da qui. Il 90% degli esercizi commerciali, ristoranti, vogliamo metterla così, a Palermo non pagherebbero, mettiamo il condizionale, ristoranti, pizzerie, pub e birrerie. La tassa sui rifiuti. Questo almeno lo dice uno studio del comune di Palermo e dunque dell'assessorato, per cui dobbiamo credere a questo. E vogliamo salutare intanto Antonio Cottone, che ha una pizzeria, la Bracera Palermo, e anche presidente dell'associazione pubblici esercizi Confcommercio. Buongiorno della città, benvenuto. Buongiorno, Cottone. Buongiorno. Salutiamo anche Antonio Fiumefreddo, che è presidente di Riscossione Sicilia, torna con noi, spesso l'abbiamo chiamato qui a Radio 24, è praticamente l'equivalente di Equitalia in Sicilia, lì si chiama Riscossione Sicilia. Fiumefreddo, buongiorno, eccoci. Buongiorno, bentrovati. Salve, buongiorno. Allora, Cottone, intanto, sì, questo 90%, capisce che letto così nel titolo fa abbastanza impressione, eh? Il 90% non paga la Tari. È sbagliato perché è 91%, quindi inserisco. Scusi, scusi, io rido, ma non c'è da ridere, Cottone, mi perdoni. Assolutamente sì, assolutamente no. Sì. Sì, è chiaro che il dato non è la media cittadina è un po' più bassa, ma siamo sempre su numeri comunque elevatissimi. Cioè vuol dire che ci sono parti della città in cui è proprio il 100%. Zone, per esempio, alcune zone dove 54 ristoranti, attività, pubblici esercizi, su 56 non pagano. Quasi tutti. 44 su 48. Sono numeri che ovviamente. Ma perché lei ce lo dice con una. Perché ce lo dice con una naturalezza? No, ma poi con questo tono rassegnato, allora, così. Purtroppo è un dato di fatto, quindi non è che possiamo stare qui a fustigare. È chiaro che quando all'interno di un esercizio commerciale ci sono delle criticità, quindi dei momenti di crisi, si cerca di pagare principalmente le cose che ti permettono di andare avanti nell'immediato. Cioè, ci sta dicendo che è un'evasione di necessità. È un'evasione, secondo me, sì. Nella maggior parte dei casi sì, e nella raffinante parte dei casi è comunque alta. Si paga per non pagare, poi in attesa della famosa contestazione. Però mi scusi, io leggevo che nelle zone bene, in particolar modo della città, l'evasione è più alta, per esempio Libertà, in Via Libertà, esempio. Via Libertà, che è una zona paga solo il 40%. Sì. Sì, sì, sì, sì, Cioè lei dice, mi sembra di capire, Cottone, in una situazione di difficoltà economica che c'è, è inutile negare, che cosa si fa? Si paga la tassa per la quale poi arriveranno... Non si paga la tassa, non si paga. Quello che principalmente va pagato tutto, attenzione, con questo non... No, certo, però lei dice, tanto poi arriveranno le contestazioni, eccetera, uno deve scegliere tra tasse comunali o statali, personale, utenze e fornitori. Certo, perché le utenze ve le staccano, i dipendenti vanno pagati, perché i dipendenti sennò... vanno via, i fornitori non ti portano più la merce. E quindi che si fa? La tassa, aspetti che ti arriva la cartella e la rateizzi. Il problema è che è un sistema istituzionalizzato, perché se lo fa il 91% delle persone si suppone che noi non la paghiamo proprio, cioè una scelta di gruppo condivisa, quindi poi il comune si registra di conseguenza, perché ci sono molte lamentele sul fatto che il servizio dell'immondizia, della pulizia non funziona. Allora come fa? Io qui non voglio spezzare una lancia a favore del comune e attaccare i miei colleghi, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che i servizi non possono essere dati, forniti, gestiti se manca la materia prima, sia quella per pagare gli autocompattatori, il personale, tutto quello che serve. Se non si paga la tassa, per esempio, non si raccoglie. Se non paghi la tassa. Senta, Cottone, io però ho una curiosità, ma lei la paga la tassa? Sì, io pure, purtroppo sì. Fiume Freddo ci aiuti a capire, ma una mosca bianca, no, lei. Non lo so, Freddo può controllare, fa Antonio Cottone la braciera in due secondi, è il presidente di Riscossione Sicilia, ce lo dice in diretta, certo. No, Fiume Freddo, che la cosa è molto più grave, nel senso che è l'esempio appunto plastico di un accordo, di un patto clientelare per cui io apro la mia impresa, il mio bar, il mio pub, la pizzeria in pieno centro storico, in Via Libertà, una delle vie più belle di Palermo, e decido di non pagare. Poi nessuno verrà a chiedermelo, e così per anni vivo non per necessità, ma tra gli utili ci metto le tasse non pagate. Quindi dice un po' più grave. Ma perché non, va a chiedere Riscossione Sicilia, glielo va a chiedere il comune, glielo va a chiedere almeno. Esatto, è una scelta profondamente disonesta che adesso è arrivata al capolinea, perché l'assessore che se ne occupa è l'ex direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, è un uomo molto attento, gentile, molto severo, quasi mio omonimo, quindi sa. Ci fidiamo. Così. Però diciamo chiaramente, andiamo a vedere senza generalizzare chi sono i titolari per lo più di queste attività che stanno crescendo a dismisura con la scusa della movida nelle nostre città. Andiamo a vedere cosa posseggono spesso, a chi sono intestate, e ci rendiamo conto che è un'attività profondamente disonesta nella maggior parte dei casi, che sporca la città, poi affidando il servizio di raccolta a quei cittadini che... Cioè lei, Fiume Freddo, ci sta dicendo una cosa ben più grave, cioè dire che addirittura è una scelta fatta a tavolino per mettere le tasse non pagate negli utili. Non c'è dubbio, con la complicità negli anni... della politica, che non ha chiesto. Però accidenti. Adesso la politica sta tentando di fare questa chiamata operazione verità, proprio per evitare di dover far intervenire voi, cioè Riscossione Sicilia. Ci lavoriamo da più di un anno, e adesso abbiamo una stretta collaborazione col Comune di Palermo, che ci ha fornito una mappa precisa. Ho sentito che sono 255.000 solleciti di pagamento che sono stati mandati, esatto. Cioè, una cosa enorme, però possiamo fare i pignoramenti, possiamo anche andare a pigliare i soldi alle loro casse. Quindi si mettano in regola e soprattutto cambi questa cultura per cui pagare un servizio si accompagna all'avverbio purtroppo. Cioè chi deve pagare? Se andiamo a cena e paghiamo sempre in due, gli altri otto non pagano, prima o dopo quei capisce, due si impoveriranno. Cottone, che dice? Effettivamente io purtroppo la pago. Cioè per Fiume Freddo è un sistema ben più... non era riferito al pagamento della tariffa. Ma il fatto che è alto. È giusto pagarla, come è giusto pagare tutte le altre tasse, attenzione. Il purtroppo, il mio purtroppo deriva dal fatto che, e questo non sono io a inventarmelo, comunque le detassazioni e l'incidenza fiscale a tutti i livelli, a livello comunale, è alta, a livello statale, e lo sappiamo. È alta. No, però Cottone, Fiume Freddo ha fatto una cosa specifica, dire non è un qualcosa di un'evasione di necessità, è un'evasione fatta a tavolino per anche per questo uno batte sul fatto che siano quartieri bene, perché non parliamo soltanto di bar o di esercizi in luoghi in difficoltà. Il centro storico anche moltissimo, leggevo. Assolutamente, assolutamente. Il centro storico è uno dei più alti. Il fatto non è che uno si siede a tavolino, apre un locale e dice vabbè no, però la tassa non la pago. Fiume Freddo ci ha detto così, Fiume Freddo la pensa così. È chiaro, assolutamente, non ci mancherebbe, rispettabilissima l'idea. Però arriva un momento in cui per uno stato di crisi che c'è, per tantissimi, io parlo di tantissimi locali, tantissimi miei colleghi che non riescono a pagare, non si potrebbe porre un'altra domanda, nel senso di dire, ma allora perché state aperti? Leggevo tanti messaggi che ci chiedono già questo, purtroppo, perché chiaramente poi la gente si chiede anche se uno non arriva a pagare, perché la speranza di poter ripartire, di poter riavviare l'attività. Questo sì, Cottone, non è che se uno è in difficoltà, in un campo chiude, è chiaro. Anche psicologico, l'affetto, il legame alla propria impresa, su questo non è che se uno non ce la fa, come dire, deve chiudere al primo mese, anche perché la tassazione in Italia è molto alta. Noi però siamo quasi rapidi a conclusione. No, possiamo dire una cosa però importante, che adesso insomma il comune sta cercando di farli mettere in regola dandogli tutte le agevolazioni possibili, quindi si parla di 4 rate l'anno per quest'anno e di 36 rate per pagare il pregresso. No, perché ricordiamo, quindi 91% non pagano la Tari. Però quindi vorrei capire da Fiume Freddo il suo rapporto con la politica com'è, perché ogni tanto la chiamiamo per capire. C'è Maretta, la vogliono cacciare Fiume Bellissimo. Freddo. Da loro mi considerano uno stalker e in effetti può darsi che io lo sia nei loro confronti. Adesso hanno fatto anche una legge per cacciarmi. Quindi dalle leggi ad persona, ma siamo passati alle leggi. Ho capito, però se le leggi vanno rispettate tutte, anche lei dovrebbe rispettarla. Certo, c'è una legge che adesso verrà osservata, per cui si nominerà un consiglio d'amministrazione, c'è un divieto perché ha amministrato la società di farne parte, quindi andrò via perché c'è questo divieto di legge. Però ecco, mi fa piacere dire che dopo 21 anni per la prima volta abbiamo approvato un bilancio con un attivo di esercizio e soprattutto abbiamo fatto pagare anche quei deputati che si consideravano al di sopra della legge. Ecco, ricordiamo, perché Fiume Freddo è quello che ha chiesto i soldi ai deputati, perché ai deputati si chiamano così, consiglieri regionali, deputati, regionali, no? Perché per anni nessuno stranamente ha chiesto i soldi delle evasioni fiscali. Io li ho fatti pagare e loro mi cacciano via, ma va bene così, si dimostra che però le cose si possono fare. Vabbè, uno palla al centro. Ma Fiume Freddo, io leggevo anche che ci sono anche l'IMU, c'è cioè un sommerso di 15.151 metri quadri di 10.000 immobili a Palermo. Assolutamente, addirittura ci sono società immobiliari che posseggono immobili da cui ovviamente riscuotono i canoni e poi non pagano, ma proprio questo significa che vi è una, bisogna dirlo, perché se noi andiamo a leggere i dati poi riferiti ad alcune regioni importanti del paese ci rendiamo conto che qui c'è una cultura dell'illegalità che poi si proietta anche, diciamo, nella mediocrità o nell'assoluta indecenza della classe politica. Cioè bisogna che siamo noi, tornando al discorso dei locali, se noi andiamo a vedere questi locali, sono stracolmi di avventori tutte le sere, quindi non è la crisi, è una cultura dell'illegalità che qui dalle nostre parti ancora ha la parola più forte. Però, ed è gravissimo, perché è un vulnus alla nostra democrazia, perché questa illegalità poi diventa clientelismo, questo clientelismo diventa prepotenza e scoraggia le persone serie, oneste, i cittadini ad impegnarsi, ad investire, a fare delle scommesse anche sulla loro vita, e questo è il problema. E per questo motivo noi stiamo desertificando un'isola, c'è cioè una percentuale veramente incredibile di ragazzi che vanno via per via non perché qui non trovano più lavoro, ma perché si non demotivano. Accettare questo, ti demotivano. Cioè, sì, sì, chiaro, non vogliono accettare questo sistema. Ecco, vi ringraziamo Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia, Antonio Cottone, che è alla braciera di Palermo, presidente Confcommercio Palermo, ci ha raccontato questa cosa. Guarda quanti ascoltatori, cara Veronica, l'800240024 ci chiamano sullo Ius Soli. Volevo farti ridere sul fatto che anche questa operazione è un'operazione di ravvedimento operoso, come quella che si ipotizzava per gli abusi edilizi di cui si parlava, queste espressioni, ravvedimento operoso. Sì, sì. No, poi ne abbiamo raccontato Palermo, ovviamente ci sono situazioni in tutta Italia, non so se di quel livello, certo è diventata una notizia perché leggere il 91% fa... No, ma l'auspicio è quello che questa cosa venga sanata, perché la Sicilia appunto dovrebbe essere una delle regioni in assoluto virtuose da rilanciare... Nel paese. Viorel, è giusta la pronuncia da Bergamo, mi dico rumeno. Viorel, buongiorno. Sì, giusto, giusto, buongiorno. Bene, buongiorno. La trasmissione alla sua signora in parte che le dà una mano a sbarcare il lunario, sì. Dica, Viorel, che ci vuol dire? Scusi, io, cioè, siccome faccio parte della quella categoria dei ragazzi rumeni che da anni viviamo in questo paese meraviglioso, gestito, vabbè, parentesi chiusa. E sentiamo sta storia degli Ussoli sì, gli Ussoli no, gli Ussoli sì, gli Ussoli no, Calapene ci dà una noia mortale. Li faccio la domanda: se questa legge viene approvata, a premessa che ho 5 figli nati tutti in Italia, vivono qua a scuola, vivo dal 97 in Italia, ripopoliamo il paese, com'è? Ripopoliamo il paese, dico, grazie a questi 5 figli. Non è questo, che è questione di decisione tra me e mia moglie, che Dio li benedica. E che vuole dirci su... Secondo lei, uno che vi sto presentando la mia situazione, padre di 5 figli, vivendo dal 97 in questo paese, che ormai ho dimenticato il numero delle tasse che sto pagando, che sto facendo il mio dovere in tutto e in tutto. Se questa legge viene approvata, a me, secondo lei, che cosa cambia? Beh, si velocizza la italianizzazione, diciamo così, il fatto che i suoi figli possano avere la nazionalità italiana. Che siano apolidi. Ho fatto la domanda della cittadinanza e chissà quando me la daranno, se me la daranno, nonostante tutti i versamenti pagati, nonostante tutte le carte in regola. Secondo lei, a me che cosa mi può cambiare? Lei si dà una risposta a dire evidentemente non è interessato. I suoi figli, secondo lei, sono interessati a essere loro, italiani? Anche loro, a essere italiani anche sul passaporto, voglio certo, dire. Certo, ma loro mi fanno la domanda: papà, cosa ci cambierà a noi? Tanto sempre cittadini di Serie B saremo, sempre rumeni rimarremo, gli occhi del popolo che ci circonda. Perché anche però loro, questo è un altro problema ancora, perché se no mischiamo tutto quanto. Cioè, il fatto che poi ci sia una reale integrazione e un essere visti in un certo modo è un altro discorso ancora. Non si può neanche lo pensare... Stato quello che può fare è intervenire da un punto di vista proprio legale. Non si può pensare che un passaporto in cui c'è scritto italiano dia l'integrazione automatica. L'integrazione è un processo che deve avvenire giorno per giorno nella comunità in cui lei vive. Comunque la ringraziamo, Viorella. Antonio da Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sinceramente solleverei una eccezione preliminare sul discorso Ius Soli, cioè sulla legittimità, chiaramente politica intendo, di questo Parlamento di approvare una legge come questa, perché ci sono iniziative su sgravi contributivi e altro, ma io penso che questa, se fatta seriamente, può essere una legge che veramente cambia il tessuto sociale. E certo, è perché un Parlamento non è legittimato a fare una legge? Non è legittimato politicamente, ho detto, non dico chiaramente che gli atti che produce non sono legittimi. Uno, perché la maggioranza è stata dichiarata dalla Corte Suprema per il discorso del premio di maggioranza incostituzionale. Va bene, questo elettorale. Però varrebbe per tutte le leggi. Allora non dovrebbe non bisognerebbe proprio più muoversi fino alle elezioni. Dovrebbe decadere il Parlamento, e invece non è decaduto perché è stata data un'altra interpretazione. Cioè, o si sospende tutto oppure. Così invece, perché la Suprema Corte ha detto che chiaramente è legittimato a legiferare. Sì, però allora... è anche vero da un punto di vista politico che c'è stata questa decisione. Ho capito, sentenza. Ma scusi, però lei l'ha detto nella frase, la Suprema Corte ha detto che è legittimato a legiferare. Sì, e punto, se si ferma lì si è dato la risposta, no? In realtà no, perché non avete ascoltato la premessa. Poiché si tratta non di una legge anche importante di bilancio, ma io gli attribuisco una grande importanza. Ma questa è una considerazione sua. Cioè... questione di le... Cioè, non, è che la, non, è, scusi, parlo, non è che la Suprema Corte ha detto certo, no, però Antonio, no. Scusi, seguendo la logica, si fermi sì. un attimo, non è che la Suprema Corte ha detto è deputata a legiferare comunque il Parlamento, ma solo le leggi, quelle sì, allora, importanti, le leggi per Antonio da Teramo, no, per l'amore di Dio. Però vede, probabilmente abbiamo un concetto diverso in questo senso di democrazia e di rappresentanza politica, sì. Trattandosi di un'iniziativa politica importante. Ancora. Un partito sì. è anche alla fine lo dirò, è un partito, si presenta agli elettori, dice io voglio approvare questo tipo di legge, sì. datemi il mandato per farlo. Nessuno l'ha fatto. Ma il mandato è stato fatto, viene dato ogni 5 anni. No, per fare un esempio, no, quello è un altro discorso. Per fare un esempio, la Theresa May, per il discorso Brexit, va bene, era legittimata assolutamente a governare. Sì, ma questo è un altro discorso. Ha deciso di indire elezioni perché sentiva di non avere un Parlamento abbastanza forte. Ma questo sta alla classe politica, alla decisione di indire elezioni o meno. Non ha a che fare con l'argomento. No, invece ha a che fare. Perché la Theresa May, ritenendo di dover prendere una decisione importante, ha voluto essere sicura va bene. Di avere un mandato politico altrettanto Antonio, forte. Antonio, guardi, purtroppo per questioni elettorali. No, aspetti, si ferma Antonio, perché sono 4 minuti che parla, cioè dobbiamo fare interventi di 30 secondi, adesso non voglio fare una lezione di radiofonia, però sono le 9.33, siamo in ritardo di 3 minuti per la pubblicità, le abbiamo dato tanto spazio. Ma non continui di scorotto. Lei pensa che questo Parlamento non è legittimato. La Suprema Corte pensa di sì. Io la rispetto, rispetto anche la Suprema Corte. E credo che non sia una situazione di illegalità. Però lei ritiene. Posso dire anche che questa cosa sarebbe dovuta valere anche per le unioni civili, secondo il criterio di Antonio da Teramo, sulle leggi importanti. Credo che le unioni civili allora rientrassero in queste cose. Parliamo di scuola tra poco, perché c'è una petizione per reinserire la bocciatura anche alle medie, cari bambini, care bambine. Elementari. State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. No, canta. Vabbè. Scusate. Alle 9.38 minuti siamo rientrati in diretta. Tra poco ci sarà anche il terzo funambolo, almeno qui nello studio, cioè Leonardo Manera. Ma cara Veronica, mentre continuate a chiamarci 800 24 00 24 sul tema, se volete Ius Soli o su quello che volete, sulle tasse che avete sentito a Palermo. Vi invito anche, cari ascoltatori dall'estero, prima ci ha scritto un ascoltatore che ci ascolta da Pechino in questo momento, siamo in diretta in Cina, salutiamo 1,5 miliardi di persone, eccoci qua. Scriveteci se ci ascoltate dall'estero, funamboli@radio24.it, perché inizieremo a chiamarvi, a vedere che vite fate, funamboliche, un po' in giro sparsi per il mondo. Cara Veronica, tu sei mai stata bocciata? No, caro. Alle medie? No, caro. Elementari? No, caro. Liceo? No, caro. Vabbè, tu invece? No, neanche. Però già qui ti crediamo tutti meno. Però in prima elementare, mia mamma, che forse all'ascolto lo sa, scappavo da scuola come Pinocchio e il maestro ha chiamato mia mamma e ha detto se fa un'altra assenza dobbiamo fargli ripetere l'anno, perché scappavo proprio da scuola. Come perché? Pinocchio, perché c'era un supplente che mi stracciava i disegni i primi giorni e io questa cosa, questo trauma, infatti disegno ecco, come un cane. Vedi che poi esce subito la storia terribile, ci vorrebbe la musichetta dalla regia alla Dickens un po', no? Questi bimbi abbandonati, lasciati a scuola, soli, però, col supplente cattivo che gli straccia i disegni, una creatività estirpata sin da bambino. Terribile, infatti disegno come veramente pessimo sono a disegnare. Però vogliamo salutare una donna che ha lanciato una petizione, si chiama Silvia Silvagni, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Silvia. Ha lanciato una petizione dove? Sulla piattaforma change.org, che è una delle più utilizzate? Sì, assolutamente. Per che cosa? Per reinserire la bocciatura. O meglio, evitare che insomma ci sia il divieto di bocciare a elementari e medie. o primaria, secondaria, chiamiamola adesso. Diciamo che questa è stata una degli elementi inseriti nella nuova buona scuola, nella buona scuola 2. Esatto. La nuova ministra Fedeli ha inserito anche il fatto che, tranne in casi estremi, proprio come estrema ratio, non si possono più bocciare i bimbi alle elementari e alle medie. E perché, Silvagni, lei è così cattiva e vuole bocciare i nostri bambini? No, non sono cattiva, assolutamente. Ho fatto questa petizione perché ritengo che le motivazioni date dalla Fedeli non siano quelle giuste. Nel senso, lei ha detto che bocciando si certifica l'incapacità della scuola di aiutare e sostenere i bambini più deboli. Era la teoria di Don Milani, per esempio, no? Come? Don Milani la pensava così, no? Un grande educatore. Sì, infatti ho avuto questa obiezione da parte di un utente su Facebook che mi ha scritto e mi ha detto: guarda, c'è stato Don Milani che ha dimostrato il contrario. Insomma, l'unica cosa è che Don Milani è stato un caso e secondo me riguarda più la formazione professionale dell'insegnante piuttosto che poi l'applicazione del caso su tutto il sistema. E invece per lei, perché lei, per ridare dignità all'istruzione primaria e secondaria, quindi usa questa parola, dice reinseriamo la possibilità di bocciare? Perché ritengo che se si portano avanti, non tanto alle elementari, perché alle elementari credo che bocciare sia veramente una cosa che si fa in casi estremi già da adesso, ma alle medie non bocciare ragazzi che hanno delle lacune significa che queste lacune verranno portate avanti nel corso del tempo e non gli verrà data né la possibilità di colmarle, perché sappiamo tutti come funziona la scuola, ci sono stata anch'io fino a poco tempo fa. Insomma, viene soltanto chiuso un occhio sul loro problema e vengono lasciati. Io in realtà ho una posizione, cioè l'ascolto, io non sono convintissimo, non ho una posizione netta. È anche un trauma però una bocciatura a un ragazzino, una ragazzina di 11 anni, 12 anni, eh? È un trauma. Sì, sì, ragione per cui la mia petizione era leggendo tutta la petizione, mi rendo conto fosse prolissa. Ma la mia idea è non bisogna focalizzarsi sul bocciare o non bocciare. Queste risorse, questi ragazzi devono essere seguiti durante l'anno. E questo sì, certo. Ma infatti, non mi interessa ignorare il problema alla fine dell'anno e dire ah, non ce l'hanno fatta, ma andiamo avanti lo stesso. Infatti lei ha parlato di buonismo, no? Che è una parola che va per la maggiore in questo momento. Beh, diceva che il buonismo a scuola poi finisce, no? Che facendo quelli generosi che fanno passare tutti quanti può anche essere funzionale a lavarsi la coscienza invece di preoccuparsi magari di investire più maggiori risorse nella scuola. Sì, più risorse, certo. Beh, c'è un po' di buonismo adesso nella scuola rispetto agli... Ci scrive un ascoltatore: sono stato bocciato in prima media, devo ringraziare chi l'ha fatto perché mi hanno fatto capire molte cose che mi hanno aiutato. Forse la capite un po' più da adulto, sarà stato un trauma pazzesco in realtà in prima media per questo ascoltatore che ci dice però ora sono laureato e quindi... Ma personalmente anch'io alle medie non sono stata bocciata, ma sono arrivata molto vicina alla bocciatura. Perché insomma a scuola non andavo bene, non mi sentivo a mio agio, tutte queste cose, ma sono stati alcuni insegnanti che mi hanno dato lo stimolo per mettermi in gioco. Non sono stata bocciata, ma il discorso è stato diverso, è stato di investimento sulla persona. Quante firme avete raccolto? Perché eravamo rimaste a 8.000, però insomma essendo la petizione ancora lì magari ci deve aggiornare. Quante firme sono per la bocciatura, diciamola così in maniera brutale? Beh, è un po' semplicistica. Sì, ma certo. No? Siamo a 9.749. 9.749, Veronica. Sono quasi 10.000 persone che dicono ripristiniamo la bocciatura, anche perché l'altro aspetto di cui lei parlava è che... Così non bocciando si sminuisce invece anche l'impegno di quelli che si applicano nel tentativo di ottenere dei risultati, cioè quelli che dicono ok, è una prova, quindi devo darmi. Non solo, anche le persone che sullo stesso piano di una persona che verrebbe bocciata hanno delle capacità inferiori oppure hanno delle difficoltà maggiori e vengono messi sullo stesso piano una persona che magari può ma non vuole oppure non ha gli strumenti per continuare. Guardi, ci scrive anche Alessandra al 349-238-6666: da insegnante sono d'accordo, il buonismo umilia chi si impegna, magari arriva alla sufficienza, induce chi non fa nulla a credere che tutto sia dovuto. Dall'altro lato io qui però ho 57 anni e maledico ancora chi mi ha bocciato in terza elementare, dice Luigino. In terza elementare, come si chiamava? Pierino. Luigino, forse. Luigino, ah, ma beh, che Luigino. Come mai l'hanno bocciato in terza elementare? Luigino? Non lo sappiamo, Luigino, ma cosa è successo in terza elementare? Secondo me era sempre il tuo supplente. Però 57 anni vuol dire che insomma, era una scuola effettivamente diversa, con maggior severità, adesso si è un po' tutta allineata. Non vogliamo introdurre la questione del buonismo dopo il 68, il 6 per tutti, il 6 politico, per politico. Carità. Però, ma non è necessario. Non è necessario, insomma, entriamo, siamo più sulle cose moderne. Però noi la dobbiamo ringraziare e salutare Silvia Silvagni, perché dobbiamo andare alle notizie sul traffico. Se volete su change.org c'è tutta la petizione ben più articolata rispetto al rivogliamo la bocciatura. Se volete firmare, non so poi di queste firme, cara Veronica, che daranno al ministro, insomma non è che sono vincolanti, però discuteranno col ministro Fedeli, che secondo me ha veramente i capelli dritti in questo momento, perché i fronti aperti sono tanti, eh? E vedremo che cosa succederà anche su questo. Però vedi, siamo un popolo di bocciati. Ciao, bocciato in prima liceo, il trauma mi ha fatto capire con quale leggerezza prendevo la scuola, sono laureato in ingegneria in 5 anni. Oppure vedi, c'è anche un ascoltatore che dice firmo anch'io, la vita è un trauma, quando nasci il primo trauma è il respiro. Beh, tutti i torti, no, il famoso era meglio morire da piccoli, no? 40 anni di insegnamento, la bocciatura ben meritata è spessissimo salutare. Un altro bocciato in terza media, sono laureato, 110 lode. Oh, stai a vedere adesso che i bocciati sono i migliori. E un attimo, e adesso c'è il ribaltamento, se non sei stato bocciato almeno una volta sei nella un vita fallito. Ma dove pensi di andare? Allora noi andiamo al traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta i funamboli. All'italiano normale dello Ius Soli non gliene frega niente, è un problema in più che state mettendo nella mente della gente. Punto. No allo Ius Soli, né adesso né mai. Vabbè, il nostro ascoltatore è così. Sei un buonista Milan. È arrivato Leonardo Manera, il bocciato. Buonista. Il pluribocciato. Sappiamo che è stato bocciato 4 volte in seconda elementare, esatto? Ma anche a metà anno, non mi facevano neanche arrivare alla fine. A metà anno mi bocciavano. Ti fermavano sulla porta. No, non sono stato bocciato, ma noi all'elementare avevamo un maestro Manesco che picchiava i bambini, dava gli schiaffi ai bambini e i genitori erano contenti. Quindi bravo. Diceva bravo, se lo merita. Rimandato. Non buonisti come adesso, Milan Gentili. Sei stato rimandato almeno qualche volta. Nemmeno, ho rischiato. Sei in condotta. No, io mi salvavo con gli spettacoli, perché io ho iniziato a fare spettacoli in terza liceo e questa cosa mi ha aiutato anche l'esame di maturità. Mi ha fatto tornare a fare 20 minuti di spettacolo. L'esame di maturità ho fatto. È straordinario. Nel senso che pur di poter fare gli spettacoli e non essere chiuso a casa studiavi, perché altrimenti via. Leonardo, chiuso in camera. E comunque, prima di tutto, buongiorno, vorrei fare un bel saluto ai tifosi juventini. Non so se l'avete già fatto prima. Ecco, non lo faccio io e sono tranquillo da 3 giorni. Tu non sai che cosa vuoi scatenare, va bene. No. Io dico, no, io non li saluto. Però no, dico, io li saluto, mi dispiace. No, io invece che sia... no, dico solo restate allegri. Io non ho capito però. Hai sentito la sottile ironia qui di restate allegri, no? Perché allegri, per, lo dico per Veronica, no, è l'allenatore della Juventus. Dai, il fidanzato di Ambra, lo conosci anche tu. Okay, fidanzato di Ambra, okay. Ok, ce l'ho, basta dire il fidanzato di Ambra. Chi allena la Juve? Il fidanzato di Ambra. Io dico che poco alla volta tutti i valori, anche calcistici, si ristabiliscono. Cioè il Milan non è, io da milanista, il Milan non è così forte come sembrava, e la Juventus in Europa, insomma. Va bene, evitiamo. Va bene. Evitiamo altre di attirare. Però il Milan altre, ha perso con la Lazio, quello me lo sì, ricordo. Sì, appunto, certo, si ristabiliscono. Andiamo avanti, Veronica. Adesso io però non ho visto la partita. Non ho visto la partita ieri perché ero concentrato per essere qui sul pezzo, no, che si occupa dei giornali, di attualità, la trasmissione. Certo. Ero concentrato a leggere un articolo, sì, di Libero di ieri. Allora, cosa dice questo articolo di ieri? Nella prima pagina dice: ormai la vita si compra su internet come un prodotto qualunque e arriva a casa congelato in ghiaccio secco, pronto per essere utilizzato. È lo sperma di un donatore per donne sole che vogliono fecondarsi in casa e avere un figlio, scegliendo anche le caratteristiche somatiche del padre. E ti ha colpito. Cioè, puoi decidere se lo vuoi biondo, moro e così via. e l'iniziativa è di una ditta inglese, costa tutto il kit da 700 a 1200 dollari e volendo arriva a domicilio anche un kit appunto che permette all'aspirante mamma di inseminarsi da sola. Cioè, tu non servi più a nulla, caro Leonardo. Allora mi è venuto in mente questo, che è il figlio Ikea, il figlio che ordina e poi ti monti a casa come una libreria, poi magari lo chiami Billy come la libreria dell'Ikea, anche se è un po' diverso. Siamo senza tra l'altro tutta la trafila che di solito si fa per avere un figlio, che è faticosa e snervante conoscersi, fissare un appuntamento, trovare un locale carino per andare a cena e interessarsi a quello che dice l'altra persona. Io invece invidio tantissimo le coppie che sono insieme da 30 anni e quando sono a cena non si dicono niente, stanno in un silenzio tombale, che triste, ma senza sensi di colpa. Invece quando esci la prima volta con qualcuno durante la cena non puoi guardare ogni 20 secondi lo smartphone, devi parlare con quella persona. A volte, io l'ho provato personalmente, quando esci con certe donne per riuscire a comunicare con loro devi andare nella stanza vicino e mandargli un messaggio su WhatsApp, altrimenti non ce la fai perché guardano di continuo il telefonino. Poi far l'amore la prima volta, che per la donna è un atto di fiducia nei confronti dell'uomo, ma anche per l'uomo non è facile, perché la prima volta che fai l'amore con una donna puoi trovare due tipi di donne: la donna partecipativa, cioè quella che capisce che far l'amore è una cosa che si fa in due e allora anche lei collabora, si dà da fare, oppure la donna attendista, cioè quella che pensa: io te l'ho data, vediamo tu cosa sai fare. e qui non vogliamo chiedere a Veronica, andiamo avanti Leonardo. Dai, poi andare a vivere insieme, ristrutturare la casa, conoscere tutti gli artigiani dell'isolato, dedicarsi a estenuanti sessioni di prove per decidere di che colore dipingere i muri, con sfiancanti discussioni sul valore estetico dello spugnato, poi la scelta dei mobili, del divano. Fortunatamente però ci sono aziende che fanno promozioni imperdibili solo per una settimana, ma stranamente per tutte le settimane dell'anno. E poi quando sei praticamente morto per la preparazione di tutto il contorno, sei pronto per fare un figlio insieme. Adesso tutto questo non c'è più, il figlio lo puoi ordinare, ti arriva a casa congelato come la spesa del supermercato, come una pizza congelata. L'unica differenza è che se metti lo sperma sul gelato nel microonde non viene fuori direttamente il bambino, ma insomma ci manca poco. Non so dire se è giusto o sbagliato, sicuramente sembra un'enormità, una cosa incredibile, se solo ce l'avessero detto un po' di anni fa. Siamo tutti sempre connessi dentro le nostre case, però soli, a farci figli da soli. Da parte mia ho nostalgia delle mie storie d'amore, anche di quelle finite male, cioè praticamente tutte, ma di ognuna di queste storie mi è rimasto il ricordo di un attimo, l'idea di essere in due in questo cavolo di mondo dove bisogna sempre essere snelli, belli, magri, in forma, performanti. Ma quando fai l'amore con una donna, in quel momento ci sei solo tu con lei, di solito. Ed è da quella intimità, credo, che dovrebbe nascere un figlio. Una volta si diceva che i figli li portava la cicogna, d'ora in avanti si potrà dire che li ha portati il postino. Il nostro Leonardo Manera, ci è piaciuto molto. Tu sai che io mi ricordo la prima volta che sono andato in spiaggia con una ragazza, tanti anni fa, nell'87 in Sardegna, e mi ricordo ancora quando ci avviavamo insieme verso la spiaggia, mano nella mano, pregustando il bacio che ci sarebbe stato sotto le stelle. Cristina si chiamava. Cristina, salutiamo Cristina, che fortunatamente è partita per altri lidi, perché ti sei salvata, cara Cristina. Abitavi in Mercate. Vabbè, adesso non diamo non è neanche troppo lontana. Cristina torna, anche questo è un appello. Ha un marito che non sa. Sì, ha un marito, parecchi figli, ma secondo me va male la storia d'amore. Sta terminando, delle crepe grosse. Ma la senti ancora Cristina? No, non diciamo, no, salutiamo, vabbè. No, diciamo. Tuo marito va male, Cristina. Vabbè, Cristina è un appello pubblico questo. È proprio una cosa dichiarata, c'è posta per te. Cristina, apri la lettera. Cristina da Vimercate, i funamboli ti stanno per cercare e ti troveranno. Intanto andiamo a aggiornare radio. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. State ascoltando un programma offerto da... carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness has started to evolve. Tra l'altro l'ultima bufala viralizzata riguarda mia moglie, a proposito del voto di Agnese. ci sono state bufale pazzesche sul fatto che nel mio comune, Rignano sull'Arno, siano stati trovati 500.000 schede precompilate, già votate. Rignano ha 500.000 schede e non sanno nemmeno dove metterle. Questa di Renzi, cara Veronica, se ti ricordi, era lo smentire una delle bufale che era circolata su di lui, cioè che la moglie Agnese avesse votato no al referendum. Ah. Gigantesche bufale. Secondo me è vero comunque che la moglie ha votato no. La rete. Questo è possibile, ma sì, non ce l'ha detto. Ma forse Renzi stesso ha votato no. Vorrebbe prendersi una pausa dalla politica, che poi insomma non ha preso. Bastian contrario. Questo non lo sapremo, però è una delle bufale, e ne circolano tante sul web, sulla rete, su Facebook, eccetera. Perché oggi, cara Veronica, qui abbiamo non solo colui che ha creato questa bufala nello specifico, ma è quello che è considerato il re delle bufale. Il re delle bufale. Un idolo per me. Una corona di bufale. Ed è il nostro il funambolo del giorno. È il nostro funambolo del giorno, già lo presentiamo, Hermes Maiolica, in arte Maiolica, in realtà Hermes Piastrella. Piastrella, ma questa è la prima bufala? Hermes, buongiorno. Buongiorno, ciao ragazzi. Buongiorno. Professione metalmeccanico a Terni, lo ringraziamo perché insomma... Ti abbiamo rubato del tempo, esatto. Sappiamo che stavi lavorando e ti stiamo sottraendo. Sì, lavoro, però è uguale, va bene, certo. Vabbè, no, come va bene? È meglio, diciamo, è meglio qui parlare qui che fare metalmeccanico a Terni. No, ma tanto non lo sa nessuno, mica lo sanno che si è interrotto comunque, un attimo. Hermes Piastrella, questo è vero all'anagrafe? Beh, no, non proprio, anche questa è l'intenzione. Anche questa, cioè voi capite che no, non sappiamo da che parte si inizia. No, però Hermes Maiolica, così conosciuto, è colui che ha creato le bufale più incredibili, tra cui questa di Agnese, ma è vero, Ma leggevo che questa di Agnese tu l'hai creata proprio a distanza di un anno dalla bufala invece del che è del 2016 questa, mentre quella del 2015 era la storia delle Volkswagen, che è la Volkswagen che regalava le macchine, e l'hai fatto proprio con lo scopo di dimostrare che a distanza di un anno, in maniera scientifica, era possibile creare una bufala altrettanto mastodontica. Sì, sì, perché ormai è una specie di algoritmo, no, creare una bufala, c'è dietro uno studio, un percorso per farla, quindi è facile creare un virale una volta, insomma, capito il meccanismo. E qual è? Spiegaci questo meccanismo. Esatto, come nasce? È un po' complesso, non sappiamo tempo. Comunque gioca tutto sulla provocazione. La provocazione, reazione, crea il successo del posto e così inizia a girare. Ma tu come hai cominciato? Cioè, come ti è venuta l'idea? Per caso, per gioco, ero scritto un gruppo, questo, i gruppi social di discussione, no? Mm-hmm. Ed era un gruppo un pochino anche, diciamo, un po' razzista e complottista. Cioè, c'erano a morte con gli immigrati e con gli alieni, insomma, no? Certo. Le cose. Certo. E allora ho fatto una vignetta, una falsa citazione della Gheng. Questa è stata la prima volta. La Gheng, l'ex ministro, sì. Che la Gheng voleva dare la casa popolare ai rettiliani, che è una razza aliena. Questa è straordinaria. Le case popolari ai rettiliani. Sì, volevo dire. Ha scritto questa cosa. Cioè, la Gheng, che è stata ministro all'epoca, ricordate tutte le polemiche, vuol dare la casa ai rettiliani. Questa popolazione aliena. E la gente? È andata virale, infatti non mi hanno spiegato come è fatta. No, come è possibile che la gente pensasse che il ministro volesse dare casa agli alieni? No, cioè, è assurdo. Certo, allora, anche perché non sei partito da cose piccole, sei partito da delle cose al confine con la... Sì. Però... No, mi sono fatto delle domande, no? Pensavo, com'è possibile? Allora, uno... forse pensavano che i rettiliani fossero anche etnia africana, no? Non avevano capito. Certo. Forse no, venivano, non lo so, i rettiliani, i famosi rettiliani dell'Uganda, magari. Invece la seconda cosa che ho fatto, quella più probabile, è che non hanno letto il testo. Cioè, appena hanno visto Kieng, certo, casse popolari, sono basta, qui, sono partite. E che è successo? Cioè, è scoppiato Twitter, Facebook, cioè, vergogna, che scandalo. Indignati, sì. Perché uno degli elementi clou è che la gente non va affatto a documentarsi. Cioè, se la bufala piace, attecchisce, perché a seconda quelle che sono le idee di partenza, la gente la sposa immediatamente e comincia a diffonderla, no? Sì, è una specie di conferma. Noi, se abbiamo un pregiudizio su qualcosa, non vediamo l'ora di trovare la conferma in rete. Però che effetto ti fa? Cioè, tu metalmeccanico a Terni, sei creato questo, diciamo, vita parallela, e c'è un primo ministro, allora premier Renzi, che deve smentire alla nazione la bufala che sua moglie abbia votato no al referendum. E te che in quel momento che fai? Godi di questa... guarda, beh, diciamo che è una sensazione particolare. Io tutti i giorni, prima andare al lavoro, a pranzo, cioè nel TG, TG sempre parlava delle mie bravate, no? Devo immaginare la scena, io a tavola con la pasta, che guarda il TG che parla delle false morti, in periodo faccio sempre morire personaggi famosi, no? Che anche quello è un classico. Sì, ogni settimana ne facevo morire uno, adesso ho smesso. Cioè, per esempio, qui c'è Leonardo Manera qui, sì, che non vede l'ora di... No, ma io mi chiedo se invece sottilmente le persone dentro di sé non sanno che sono bufale, ma le accettano nonostante alla fine si capisca che un po' sono bufale. Insomma, è come se piacesse alle persone credere a queste cose, o no? Sì, poi come dicevo prima, non vede l'ora di trovare delle conferme ai propri pregiudizi. Quindi, sono una valvola di sfogo a volte, no? Cioè, basta respirare quello che è l'umore collettivo, inventarsi una notizia anche grottesca, il più grottesca possibile, e a quel punto la gente la accoglie. Ma con... certo, ma l'esempio fu quella di Umberto Eco, quando hai detto Umberto Eco voterà sì al referendum, peccato che fosse già morto Umberto Eco. Da un anno oltretutto. Sì, e visto, infatti c'erano dei commenti, mi hanno stupito, che dicevano: lo so che è morto, però uguale deve andare a quel paese. Perché dopo, piuttosto che rettificare, a quel punto uno è disposto a dire qualunque cosa. È morto, ma se fosse stato vivo avrebbe votato sì. Così, certo. Io lo so che avrei... Vabbè, ma perché siamo un popolo in cui le famose fake news o le bufale hanno preso così piede, secondo te, Hermes? Ma penso che girino un po' ovunque, cioè non è solo l'Italia, è proprio... Chiaro, chiaro. Forse... è anche un po' la perdita di credibilità anche della stampa ufficiale, no? È un po' la perdita di credibilità da parte delle istituzioni pure. Ma secondo me uno dei motivi è quello che le persone ormai leggono solo i titoli, come si diceva prima, no? Non si approfondisce più quello che c'è nell'articolo. Quello sicuro, quindi... ma quando faccio l'articolo spesso dentro non ci scrivo niente, oppure parlo direttamente di un'altra cosa, faccio più cazzo di titoli. Però una volta addirittura Hermes Maiolica ha fatto un post, e posso dire, conosco alcune persone che hanno creduto e mi hanno scritto: è morto, perché ha fatto anche il post sulla propria morte. L'hai fatto anche questo. Dissacrare per dissacrare. Hai fatto una bufala sul fatto è morto Hermes Maiolica, è vero? Sì, sì. E quanti ci hanno creduto? Tutti? Purtroppo ci hanno creduto pure le persone che mi stanno vicino, quindi ho fatto un po' d'anno. Ho subito un po' critiche per questa cosa. Non è stata una grande idea questa. No, infatti forse la bufala mi pento di più. Il pentimento del bufalaro. Senti Hermes, ma invece il debunking cosiddetto, cioè quando si tenta di smentire la bufala argomentando in maniera oculata, precisa, tutto, perché la notizia è falsa, molto spesso finisce con l'irritare le persone che invece vogliono credere ancora di più alla notizia falsa. È così, vero? Beh sì, perché comunque siamo tutti polarizzati, non funziona che polarizzati, intendo che... Sì, sì, non è che smascherare una cosa è così facile, perché come le persone hanno le loro idee, non è solo un discorso di credulioneria, è un discorso proprio di presa di parte anche ideologica, quindi Hermes, sono un po' complesse. Tu hai dei figli? No. Ah, ecco, perché altrimenti non avresti avuto nessuna credibilità con loro come padre. No, perché ci sono anche critiche, ovviamente Hermes, c'è chi ci scrive, ma insomma, ma è una persona che addirittura da arresto ci scrive un ascoltatore. È vero che la burla, la celia, non vorrei tirare fuori amici miei, ma il gusto di scherzare è vecchio come il mondo, no? La zingarata. È la zingarata, però tu ne combini anche alcune un po'... Pensate, sì, infatti ho molte critiche, ho molto criticato, spesso me ne sono passato. A volte frainteso, anche spesso in interviste, anche come l'ultima, senza aver citato il giornale, insomma, è stata molto fraintesa, parlavo giornalista, non mi capiva, è un'arte un po' complessa. L'ho letta, pensa che credevo fosse una bufala anche quella, invece no, quella era vera. Sì, che non ci siamo capiti, a questo punto si è arrabbiato il giornalista e ha scritto così, comprendeva cyberpunk col cyberbullismo... pensavo che mettevo le buffe in rete proprio per essere odio, insomma, non Vabbè, insomma, fai un'attività da questo punto di vista un po' borderline, però per quanto provocatoria, provocatoria, vogliamo dire che forse è una provocazione che però in realtà invece mette l'evidenziatore su quanta roba gira assolutamente inverosimile, quanto si è pronti ad attaccarsi immediatamente. Facevamo l'esempio giusto ieri, Alessandro, no, delle bufale sugli stupri di Firenze, sulle assicurazioni delle ragazze, sul 90% di denunce, e la gente ci crede subito, no, di denunce che in realtà non sono vere, subito. Se tu avessi fatto una bufala di quel genere sulla questione, su questa questione qui, immagino quanta gente avrebbe immediatamente creduto a qualsiasi cosa. E poi al pregio, secondo me, la bufala di mettere in moto il cervello di chi legge almeno per un attimo, dire sta cosa sarà vera lo o no. Lo spirito critico, un secondo, no? Quando ti rendi infatti, conto che... La mia è un'arte situazionista, ispirata al situazionismo, no? Certo. E anche altri movimenti collettivi come l'Uther Blizzard. Cioè, è una provocazione che serve un po' a spiegare i meccanismi, a spiegarli. No, ma infatti, ma poi io questo, per carità, cioè, è tutto criticabile, ma questo moralismo per cui tutti pensano di avere la parola giusta, di essere nel giusto invece gli altri sbagliato, insomma, non lo capisco. Però, ecco, la domanda nel concludere, ti dobbiamo lasciare perché devi tornare a fare il metalmeccanico a Terni, è quante bufale ci hai detto in questi 10 minuti, quante notizie? Vere, quante false, c'è chi ci scrive, ma guardate che non so se parlate con Hermes Maiolica o con qualcun altro, perché ho un accento inconfondibile, sì, devo dire che l'accento si sente, per cui che dai, è impossibile. Vabbè, la prossima bufala, così la sveliamo e ti freghiamo, stai pensando qualcosa? No. Al momento sto fermo perché sono stato un po' troppo sotto i riflettori e diciamo che ne non stai essendo preparando. Una rockstar, essere conosciuto come troll non è il massimo, no? Perché... ma guarda che ci sono tante carriere, cioè, adesso ho capito, c'era prima il nerd, adesso c'è il troll, anche esatto. Il troll non lo so, secondo me vuol dire che si mette come un fiume carsico a prepararne una gigante. Sì, soprattutto se fa attenzione, non si fa vedere, quando esce con la prossima, bim, proprio fa il botto. Bocca al lupo, Hermes Maiolica, dobbiamo andare al traffico. Ciao Hermes. Ciao. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta I Funamboli. Allora, le 10:20 minuti, qui siamo ai Funamboli. Scriveteci a 349-238-6666 e dobbiamo leggere un messaggio che ci è arrivato, molto importante. Tantissimi complimenti a Manera, applausi eccetera, ma soprattutto vorrei leggere questo ascoltatore. Dice: Manera, grandissimo, sei molto bravo, poi hai una voce molto sexy. Michele da Firenze. Grazie Michele, vieni a trovarci, Michele, vieni qui in via Monterosa e ti aspettiamo volentieri. 91 via Monterosa 91. Ti ha scritto che ha una voce molto sexy, mica gli puoi mettere subito le mani addosso a Michele, stai buonino, eh? Sì. Allora, c'è un ascoltatore che ci ha chiamato all'800240024, Franco da Roma. Buongiorno Franco. Buongiorno. Da Verona. Si è arrabbiato. Vicino a casa mia, io sono di Salò, Lago di Garda originario, lì a 30 minuti. Ecco, il Lago di Garda lo vedo da qua, guarda. Ecco. Ma si sentiva infatti l'accento dei Trastevere. Franco, anche fosse stato da Roma, che problema c'era? No, ma sì, vabbè, ognuno per il punto. Niente, vabbè, sono due giorni che... ognuno porta acqua al suo mulino. Devo ripassare la geografia, va bene. Dai, Franco, da Verona, dica. Niente, io chiamavo per il discorso della scuola e bocciature. Io ho avuto il mio secondo figlio che ho chiesto io in terza media che venisse bocciato perché era palesemente immaturo. I professori si sono rifiutati perché non si può, ma, no, ma cosa, ma come. Poi è andato alle superiori e in prima è stato bocciato secco. Allora, poi questa bocciatura ha contribuito alla sua maturità, perché si è reso conto che non era tutto facile, che non era tutto semplice, che i libri, anche se li compri nuovi, che costano un mucchio di soldi, bisogna anche aprirli e consumarli. Per cui lui da allora poi ha cambiato completamente atteggiamento verso la scuola, verso l'università, che va via come un aereo. E... vabbè, vedi, la bocciatura... Quindi lei è d'accordo? Lei firmerebbe la petizione per bocciarli? Ma Ma assolutamente sì, ma perché comunque secondo me, voi no, avete detto no la storia del 68, ma secondo me è ancora figlia di quel concetto lì, certo, dentro la scuola, perché gli insegnanti di adesso sono figli o sono stati di quella generazione, di quella generazione, sì, lì che ancora prima era il 6 politico, adesso è apolitico, non è il 6 post ideologico. Guarda, io proporrei anche la bocciatura preventiva, anche se non va bene, diamogli una bella mazzata, così così si rende conto di com'è la vita. Il nostro Leonardo Manera, come solito, ha lo sguardo laterale sulle cose. No, però Franco da Verona, insomma, ci fa capire che quella bocciatura è servita al figlio, come molti ascoltatori ci hanno scritto dicendo da quella bocciatura ho imparato qualcosa. Banderuola al vento. Però ieri pomeriggio mi hai detto io sono contrario alla bocciatura, ma che cos'è, mi si traumatizzano i bimbi, adesso banderuola, hai sentito due così, tre campane. Ma io sono così, vado a dormire con delle certezze, al mattino si frantumano, cambiano completamente, si frantumano, vivo di dubbi, io vivo di dubbi. Tu sei l'opposto della polarizzazione delle opinioni. Oh, che bella parola, qui siamo ad alti livelli, ogni tanto vengono fuori queste cose, hai visto? Ogni tanto le butto lì, così butto la palla al centro, esatto, per vedere che succede, mi ritorna sempre in faccia. Gira pure quella salamella che siamo alla festa dell'unità e allora, poi dopo andiamo avanti con un altro tema. Cioè, venite tutti, c'è la festa dello strutto. Stiamo veramente degenerando. Sono le 10:24 minuti, dobbiamo parlare di un tema molto serio che sta interessando tutti gli abitanti di un paesino che è Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. Noi abbiamo il sindaco Fabrizio Parisotto che è con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Quante anime fate a Montecchio Precalcino? All'incirca 5.050-5.060. Ma compreso il gallo o escluso? Ecco. No, se tengo conto dei galli andiamo a 5.120. Cos'è questa storia dei galli? Cos'è? Questa storia dei galli. C'è un gallo, pare, o vari galli che disturbano... Vari galli, troppi galli in un pollaio, come no, invece come pare sappiamo, così, sindaco, a meno. C'è un allevatore che ha troppi galli che disturbano il sonno di Montecchio Precalcino, così è? Sì, diciamo che è stata fatta una segnalazione alla competente ULS con un eccesso da parte della polizia locale. Hanno verificato la presenza di 40 polli 40 e polli. Una ventina di galli. Aia. Che appunto arrecavano disturbo. E sembra il verbale dei carabinieri, arrecavano disturbo alla quiete pubblica in via... No, non i carabinieri ma la polizia locale. Ah, polizia locale. Ma in questi casi cosa si fa? Cioè bisogna dare del sedativo ai galli, che si fa? Ma niente, è la prima volta che mi capita una cosa del genere, spero non mi capiti più. Che succede? Cioè, diciamo è stato investito lei come sindaco del problema? Sì, come tanti problemi che si devono affrontare tutti i giorni, dalle cose più piccole, più stupide, a quelle più importanti, e questo è un problema quotidiano. E come ha fatto? E che ha fatto? Perché questi galli cosa fanno? Cantano sempre? Anche di notte? In pratica sì, cantano anche di notte. C'è chi dice che è un problema per quanto riguarda la pubblica illuminazione, perché le luci fanno scambiare il giorno per la notte i galli. Hanno il jet lag questi poveri galli, perché se cantano la notte, col fuso orario, chichirichini, allora sbagliato. Esatto. E quindi lei come... Diciamo che, ho avuto una segnalazione, quindi è arrivata un verbale da parte dell'ULS in cui è stato verificato che non è proprio un allevamento amatoriale, ma è più iscrivibile tra le industrie insalubri. Quindi come allevamento proprio per i numeri. Cioè, i numeri e tipologie di animali. Quindi lei che ha fatto? L'ha chiuso? Li sopprime i galli? Cioè, No, assolutamente. Ho fatto un'ordinanza, come dovuto da legge, da regolamento comunale, da norma. Ho fatto un'ordinanza in cui ho invitato il coltivatore a ridurre il numero dei polli e dei galli. Ma perché lei ritiene che il problema nasca dal fatto che troppi galli, troppi maschi di gallina che tra di loro combattono per il primato? Li ha soppressi praticamente. Un po' tipo te in Manera, insomma. Ci ha detto non li sopprimo, ma ha detto di sopprimerli. Insomma, No, io ti sopprimo. Ridurli. Li può anche regalare. Li manda via dal paese. Sa perché sindaco? Perché la sta ascoltando e voglio salutarla con grande piacere. Ritorna con me Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Carla, ciao, come stai? Alessandro, che piacere. Ho meditato molto quest'estate sul mio rapporto con gli animali, come mi hai detto tu. Perché tu sei un ragazzo d'oro, io l'ho sempre pensato. E ho deciso che li amo alla follia. Vedi? E quindi... loro ti amano alla follia se tu li ami. Va bene. Però, cara Carla, questi galli rompono un po' le scatole. fossero gli unici, voglio dire, se noi dovessimo provvedere all'allontanamento di chi rompe le scatole. Secondo noi rompono meno le scatole i galli di tante altre, meno, no? Meno dei vicini di casa, per esempio. Ma insomma, io penso una cosa, che in un posto carino come sicuramente è il luogo dove sono questi galli e questi polli, con un sindaco attento, come mi sembra, il problema si risolverà. Non credo che il problema, che il modo di risolvere questo problema sia necessariamente la pentola. Insomma, in una comunità armoniosa ci sarà sicuramente il modo di smistare un po' questi animali, di coinvolgere il proprietario. Io sono sempre del parere che prima di arrivare alle soluzioni estreme c'è una strada lunga chilometri. Sì, ho capito, ma siamo in comunità in cui c'è un sindaco che si deve occupare del problema dei galli che cantano. Il sindaco, perché è persona responsabile. In realtà il sindaco, voglio dire, potrebbe autorevolmente dire che questi galli vanno smistati. Non è che siamo a Brooklyn, non è che siamo a Manhattan. Di fatto è quello che ha fatto, no? Ha detto che vanno, insomma, lo smistamento distribuiti. Dei galli è meraviglioso. Facciamo come i migranti, prenditeli a casa tua, allora, Leonardo, i galli. Facciamo le quote galle. Leonardo li vuole, gli faccio le. Guarda, io sono abituato al rumore della tangenziale, mi trovo benissimo, sono proprio con vista tangenziale, tangenziale. Se proprio sei buonista, cara Veronica, prenditeli a casa tua 5 o 6 galli, no? Io posso valutare la cosa, ma sono anche autorizzata poi a fare il brodo oppure no? Carla, hai sentito? Io dico questo, che ognuno risponde alla propria pentola e alla propria coscienza. Io ci metterei qualche a bollire a fuoco lento qualche altro soggetto che non sia di galli, non dirlo perché se no, non so, però non è solo un problema di quiete pubbliche, è proprio anche un problema di igienico-sanitario, perché l'azienda, perché? Questo, beh, se ci ha detto che l'azienda ha dei problemi dal punto di vista delle regole, lì dovrà intervenire l'ASL. Devo comunque intervenire da questo punto di vista, al di là che mi piacciono gli animali e quant'altro, sono cresciuto anch'io con galli e galline, quindi non è assolutamente questo. Ma rompono così le scatole, cioè cantano così tanto che per uno a Montecchio Precalcino è più che altro così ci distruggono il mito della vita agreste, bucolica, in cui uno si sveglia col canto del gallo. La poesia, sì. Qui bene o male hai ragione, ma io darei un suggerimento al sindaco, se mi posso permettere. Sì, un suggerimento al sindaco, ecco. In una comunità che conta più di 5.000 abitanti, se il sindaco mette una, come posso dire, un pubblico avviso dicendo cedesi gallo. I galli, quando non sono concentrati in un solo posto, possono essere anche molto graditi, perché poi la mattina svegli, certo. È come sempre la concentrazione che fa il problema. Capito, sindaco, prima di occuparsi se le sue casse comunali vanno bene, se tutti pagano la Tari, se le buche nel paese ci sono, faccia un bel annuncio, cedesi gallo. Cediamo i galli. Faccia anche una giunta comunale straordinaria, un consiglio comunale straordinario. L'alternativa è cercare di ripristinare il giusto fuso orario per i galli, quindi dargli, capito, un po' di buio, melatonina, un po' di melatonina anche, no? Insieme. Sindaco, ma posso chiederle, sindaco, lei umanamente, quando si è messo in politica, è gratificato da questa cosa? È contento di occuparsi politicamente di questo problema? E dal punto di vista politico, appunto, è gratificato oppure no? Beh, occuparmi di questo problema dal punto di vista politico sicuramente no. L'opposizione cosa dice a Montecchio Precalcino in consiglio comunale su questa storia dei galli? L'opposizione? Non li ho ancora sentiti. Va bene. No, vabbè, dai, stiamo un po' scherzando, perché sicuramente, però voglio dire, però è un problema, se abbiamo capito che è un problema per... Sì, diciamo che devo comunque, purtroppo, nolente o volente, devo far rispettare delle regole, delle norme di quieto vivere, dallo sfalcio della siepe del vicino a anche queste cose qua. Mi dispiace, perché ripeto, anch'io sono cresciuto con i galli e con le galline, però devo le regole sono regole. Vabbè, ognuno ha i suoi problemi, c'è, cioè, chi ha gli schiamazzi nelle città, no? I locali che tirano tardi, e chi invece ha i galli, ognuno è suo, a seconda della... Poi se spengo le luci per non far cantare i galli, mi richiamano, perché la sicurezza, i problemi, eccetera. Certo, lì poi diventa, no, per carità, meglio i galli. Va bene, noi nel ringraziare il sindaco di Montecchio Precalcino, Vicenza, Fabrizio Parisotto, e nel ringraziare Carla Rocchi. Carla, hai qualcosa da dirci sugli animali? C'è qualcosa che in questi giorni ti sta... Che vi devo dire? Vi dico soltanto una cosa. Un'orsa che è stata chiamata con una sigla, KJ12, e invece per noi è mamma orsa. Nel frattempo, sì, ne è stato trovato un altro morto. E insomma, francamente, se il Trentino si alleggerisse la coscienza, forse farebbe bene a tutti noi. E basta di trovare orsi morti, e basta di ammazzare orsi, e basta di ammazzare animali, e basta di andare a caccia dopo che tutto tutto il paese è stato messo a fuoco dagli incendi e basta davvero di rompere le scatole agli animali. Questo è il mio pensiero di stamattina per voi. Il pensiero di Carla Rocchi, presidente internazionale protezione animale. Beh, sulla caccia magari un giorno la richiamiamo, perché la caccia sì, è beh, molto c'era anche dibattuta. La storia ieri sui cavalli che portano le carrozze. Sì, le botticelle a Roma. Le botticelle, esatto. Esatto. Allora dai, andiamo. Però c'è un ascoltatore che si chiedeva, ma riducendoli a capponi i galli, dai, canterebbero lo stesso? Chiedeva Franco. Ragazzi. Subito la castrazione. Con un tono un po' diverso. Esatto. Non chimica in questo stavo caso. Stavo pensando esattamente, no, perché sennò poi non puoi più mangiartelo dopo. Nelle voci bianche. Dai, andiamo alla borsa e poi rientriamo con il nostro defurbizziamoci tanti altri temi qui ai Funamboli. I Funamboli. Dovrebbe essere normale che un bambino nasce in un paese e fa parte di quel paese. Sono tutto il resto delle leggi che sono sbagliate. La Chieng dalla casa ai rettiliani. Quando penso che il voto di chi crede a questa bufola vale quanto il mio, mi sento male. Invece non ha torto, devo dire. È un tema torto. Controverso. Guarda che sarebbero tanti voti in quell'occasione, perché tante persone hanno commentato quella notizia dicendo vergognati. Tanti, vabbè, ma come il cosiddetto complottismo, cioè credere sempre alla dietrologia, tutto quello che c'è dietro e non è detto, perché non è detto è sicuramente vero. Una volta si diceva l'ha detto la televisione come certificazione di verità. Adesso invece come certificazione di falsità si dice l'ha detto la televisione. È diventato l'ha detto Hermes la televisione la gana forse dalle 11. Sì, Iannacci. Dai, Rosario da Napoli. Era Iannacci, giusto? Mi sembra di sì. Sì, come no. Rosario da Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi e buona giornata a tutti. Grazie. Allora, volevo esprimere il mio parere per quanto riguarda le bocciature. Sì. Sì. Allora, non servono. I ragazzi che vengono bocciati sono ragazzi che in genere sono distratti, che non sono ben seguiti, che non hanno una famiglia alle spalle e spesso continuano anzi quasi sempre vanno male. La soluzione non è né la bocciatura né la promozione, ma classi di massimo 15 persone, perché i ragazzi vengono seguiti per bene. Rosario, non è possibile ovunque, lei lo capisce. No, il problema non è che non è possibile, perché è possibile, perché si tratta di una spesa dove bisogna trovare delle coperture. Ma io vi invito a riflettere che stiamo parlando del nostro patrimonio più grande, i ragazzi. Ma certo, Rosario, però il futuro. E questo sicuramente. Lei comunque dell'idea lei che la non pensa come la ministra Fedeli, che dice che bocciando si lasciano indietro i più fragili, i più in difficoltà. Sì, no, ha detto così, non serve a nulla la bocciatura. Insomma, i nostri ascoltatori vedi che si dividono e ognuno la pensa a modo suo. C'è Pierluigi da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, io ho telefonato per segnalare quella che secondo me è una carenza di informazioni nei riguardi dei cittadini. Cioè, nessuno ha detto che se gli attentatori che hanno fatto i vari attentati in Europa fossero stati residenti in Italia, avrebbero usufruito tranquillamente dello Ius Solis. Solo questo. È un'informazione che mi pare che nessuno abbia dato. Non ho capito cosa c'entra il tema attentati con lo Ius Solis. Non c'entra, perché noi daremmo la cittadinanza a gente che potenzialmente non ma che discorso integrata. È questo? No, scusi, è un discorso che funziona. È vero o non è vero che gli attentatori sono tutti quanti persone di seconda generazione? Sì, ma sono persone. Parliamo di 800.000 casi e lei dal caso dei ragazzi e di quello che è successo ne fa l'esempio dell'integrazione dello Ius Solis. Allora dovrebbe valere per tutti i casi. Cioè, perché le generalizzazioni non si fanno nel caso dei carabinieri e si fanno nel caso dello Ius Solis? Mi scusi. Qual è la logica? Per i carabinieri è molto semplice. Molto i carabinieri sono stati esclusi e diciamo l'arma ha preso le distanze, non mi pare che la comunità. Quindi gli 800.000 ragazzi che aspettano lo Ius Solis avrebbero dovuto prendere le distanze dagli stupratori di Rimini. Sì, i rappresentanti della comunità, che non mi pare abbiano mai fatto grandi cose. Ah, ma comunque, Pierluigi, la questione è che lo Ius Soli accelererebbe un processo di rendere italiani persone che italiani lo diventeranno comunque a 18 anni. Non mi pare che questo è successo negli altri paesi europei. Questo succede, cioè, se non passa lo Ius Soli, come non passerà? I 5 figli del rumeno che ci ha chiamato prima, comunque a 18 anni potranno decidere di chiedere di essere cittadini italiani. Quindi succederà comunque. Cioè, questo semplicemente accelererebbe questo percorso, ma non è che creerebbe. Io dico solo una cosa, che non mi pare che abbiano, tra le varie informazioni date ai cittadini italiani, che tutti gli attentatori che ci sono stati in Europa sono immigrati di seconda generazione. Sì, l'hanno detto questo. Tutti i giornali hanno raccontato. Di questo se ne parla tanto, anzi si dice molto spesso che siccome sono un pensionato, io leggo una quantità. A tutti i giornali raccontano, sono originari dal Marocco piuttosto che lo Ius, se fossero diciamo stati in Italia, avrebbero utilizzato lo Ius solo come informazione. Va bene, Pierluigi, non mi pare che nessuno l'abbia detto. Ok, questa è la sua opinione. Alle 10:44 minuti dobbiamo andare al traffico, ma prima dobbiamo fare la nostra rubrica. Abbiamo tempo per farla. Deforbizziamoci. Certo che abbiamo tempo. Se il nostro Marco è sintetico, Marco, buongiorno. Marco, una furbizia di corsa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Marco di Mantova. Niente, volevo anch'io partecipare alla trasmissione questa qui del Furbizziamoci. Niente, io 50 anni fa avevo 9 anni e ho rischiato anch'io una bocciatura alla scuola elementare. Ah, siamo in tema. Perché una mattina è entrato in classe un mio amico con la mano fasciata. E allora è rimasto senza scrivere per una settimana o 15 giorni, adesso non mi ricordo bene. Allora io ho detto, ma pensa che fortunato. Ma guarda. Poi questo qui è stato 15 giorni senza scrivere, senza niente, tutti gli altri scrivevano e lui non faceva niente. E quindi? Allora me la sono fasciata anch'io la mano. Giusto, no? Certo. E allora simulando che cosa? Una microfrattura. No, sono andato a scuola dopo circa una settimana e il maestro mi ha detto, Martini, cioè Marco, come mai che anche tu la mano fasciata, maestro, nel fare il trasloco, siccome dovevo traslocare da un appartamento all'altro, è caduto un pezzo di, come si dice, vetro e mi sono tagliato. E allora sono rimasto anch'io 15 giorni senza scrivere. Ma la mano se la fasciava lei o erano i suoi genitori conniventi? No, il problema è questo, che la mano me la fasciavo io. E poi tornava a casa si doveva sfasciare. Sfasciata, giustamente. Quindi ha fregato i genitori e la scuola, insomma. Tutti quanti. Alla fine ci credeva anche lei. Vabbè Marco, però decidiamo noi che lei è stato... defurbizzato. Ha raccontato questa cosa. Era quasi caduto in prescrizione il reato dopo 50 anni. Avrebbe dovuto rompersi veramente un braccio, darsi delle martellate sul braccio. Tu avresti usato questo sistema, La coerenza. Cioè, per essere proprio ligio, se voglio fare una furbizia la faccio, però mi spacco un braccio veramente. Voi raccontate la volta in cui avete fatto i furbi a funamboli@radio24.it. Ma non fate i timidi. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta i funamboli. È l'ultima parte dei funamboli e tra l'altro vogliamo invitare tutti quelli che ci ascoltano dall'estero, lo sapete, a scriverci, funamboli@radio24.it. tra un po' inizieremo a chiamare i nostri ascoltatori che ci seguono da tutto il mondo, anche dalla luna. Attenzione, c'è anche un ascoltatore che ci ha scritto: sono rettiliano e voglio diritto di replica sulla questione. Ale, ma io qui cosa vedo qui sulla Gazzetta di Modena, questa notizia della Gazzetta di Modena ci porta una notizia, ma nera, attenzione. A Carpi, vicino a Modena, ladro con gamba amputata ruba soltanto una scarpa. ma scusami, ma questa è vera o è? È vera, della Gazzetta di Modena. Ha rubato una scarpa solo perché gliene serviva soltanto una dal momento che ha subito l'amputazione di una gamba. I carabinieri della compagnia di Carpi in pattugliamento hanno verificato questa cosa. Non è una notizia di Hermes Maioli. Cosa? No. Hanno ritenuto che fosse comunque furto, temo, sì. Necessità, no. No, capito, è sempre il furto di una scarpa, no? Capito? Non è che tu che vendi scarpe poi ne vendi una. Che puoi fare? Vabbè, ti ha colpito questa notizia, caro Leonardo. Siamo qui alle 10:49 minuti, caro Leonardo Manera. E che cosa ti ha colpito? Guarda, io ho iniziato la puntata con questo monologo dedicato alle coppie. E allora vorrei finire oggi la puntata ancora con un momento romantico che dedico alle coppie. Anche se, aspetta. Ecco, dicevo, anche se l'amore non dura, insomma, sempre, no? Al massimo 3 anni, gli ormoni dell'amore durano al massimo 3 anni, ossitocina e dopamina, che sono quelli che ti fanno sentire le farfalle nello stomaco, al massimo durano 3 anni per la stessa persona. La media va dai 3 ai 12 mesi. Perciò, per esempio, se una coppia sta insieme da 7 anni, vuol dire che già da 4 anni ognuno sta con un altro, con il quale peraltro è già in crisi da un anno. È stufato da un annetto, è una tragedia. Senti che musica da piano bar che c'è qui sotto. Sì, però... Si spera sempre che magari di notte, d'estate, sulla spiaggia possa nascere un nuovo amore, una coppia nuova. Perché le coppie vecchie, quelle che sono insieme da tanto tempo, d'estate non vanno sulla spiaggia a fare l'amore, vanno al cinema, a guardare quelli che lo fanno nei film. Invece le coppie nuove d'estate vanno sulla spiaggia e parlano. Parlano di cose delle quali, se si metteranno insieme, non parleranno mai più. Il senso dell'amore, il senso della vita, i perché dei perché. Anche le coppie vecchie si pongono dei perché. Perché è aumentato il prezzo del detersivo? Perché non hai ancora pagato la bolletta? Perché hai preso la pancetta coppata? Che a me piace lo spec. Le coppie nuove si proteggono. Se di notte sulla spiaggia lei ha freddo, l'uomo della coppia nuova le cede volentieri il suo maglioncino. L'uomo della coppia vecchia le dice: potevi portarti un maglioncino da casa. Le coppie nuove si stupiscono di tutto, perché si stupiscono del loro amore. Hai visto, amore? Ci sono delle nuvole nel cielo, ci sono delle conchiglie sulla sabbia, ci sono delle onde nel mare. Le coppie vecchie non si stupiscono più di niente. Hai visto? Ci sono dei cigni che si baciano nel mare. Me li faccio arrosto, me li faccio. E tu potevi portarti un maglioncino da casa. Le coppie nuove hanno l'illusione, la speranza che non finisca mai. Le coppie vecchie hanno il terrore che duri per sempre. Ma sanno che l'amore è una piccola stella cadente nella notte della solitudine. Vabbè, signori. Ma quanta poesia. Molto romantici oggi. Oggi sei veramente romantico, Sì. Sei molto che romantico. Ci sia una donna nel suo cuore. Ma chi lo sa? In questo momento, a parte i galli... A parte Michele da Firenze, mi sembra che a parte ti Michele da Firenze, i galli e io in studio, perché questo è il massimo che offre la casa. Sì. Allora c'è Marco che ci chiama da Bergamo. Buongiorno, Marco. Sì, buongiorno. Io volevo semplicemente dire, per quanto riguarda le fake news, da normale e banale frequentatore del web, che la stragrande maggioranza delle volte, quando viene sparata una di queste notizie, una di queste bufale, nell'arco di qualche minuto non tarda ad arrivare quello che comincia a chiederti: ma qual è la fonte, ma qual è il giornalista, ma qual è la rete, ma qual è il giornale? E dopo, a quel punto, si innesta un processo, non dico di riparazione, ma insomma di appiattimento di quello che è stato all'inizio, cioè un po' la reazione spumeggiante. Il problema molto più serio, secondo me, è come facciamo a difenderci dalle fake che ci vengono dai media classici, diciamo, da quelli, dai telegiornali, dai giornali stampati. Ecco, è molto più difficile combattere quelli, perché quelli non hanno una replica immediata. Quelli lanciano cose e poi, prima di rimediare a queste cose, secondo me è molto più dura. La differenza spesso è che quelle che sono date come informazioni un po', no, alterate, cioè con una chiave di lettura, è quello che può accadere nell'informazione pubblica. Non solo. Lei pensi ad esempio a quando i media non danno regolarmente una notizia. Faccio l'esempio dei suicidi. Saranno almeno 5-6 anni che ogni anno abbiamo centinaia di suicidi per la crisi. E quante volte ne avete sentito parlare? Guardi, parla Radio 24, che è la radio che ha fatto una campagna per mesi su questo. Ho capito. Io posso rispondere. Lei dice: quando i giornalisti parlano di questo, sta parlando la radio in cui è stata fatta una campagna. Quindi... Ma io le rendo merito, per carità. No, ma non io, la radio. Sì, sì. Ma dico in generale, quante volte se ne è sentito parlare nei TG? Però quella è una cosa un po' diversa. Sono omissioni, a volte appunto scelte editoriali. Per cui si decide che qualche cosa non è interessante, non è rilevante, talvolta anche perché può essere politicamente scomodo. Però la fake news è proprio più una cosa così, anche diventa a volte quasi folcloristica. Certo. C'è Luca da Forte dei Marmi, deve essere velocissimo in 20 secondi, Luca. Stiamo chiudendo. La ringrazio di avermi richiamato. Parto dalla premessa che il popolo italiano è un popolo per lo più composto da analfabeti funzionali, e questo lo sa benissimo, è il frutto di tanti studi. Essere analfabeti funzionali significa non essere in grado di comprendere quello che si legge. E il signor Maiolica, quando posta le fake news, si rende partecipe di un processo di disinformazione gravissimo, perché sulla base di queste informazioni false, che a una lettura attenta si esplicitano come false. Felice fa una cosa grave. Fa una cosa molto grave. Va bene, si fermi lì, è il suo giudizio. Luca, noi accettiamo il giudizio di tutti. Chiedono un saluto in bresciano, Manera, per concludere. Ciao a tutti, vi aspetto la settimana prossima a casa mia, provincia di Brescia. Va bene, arriverà anche il momento di Peter. Dobbiamo chiudere, i Funamboli torna domani alle 9.